qua a Roma abbiamo deciso, siamo per lo più centri sociali in questo momento, di portare avanti, di realizzare questa iniziativa con gli studenti del Virgilio, perché 2 mesi fa circa loro sono stati primissimi ad essere colpiti dalla repressione del DDL ancora prima che il disegno di legge passasse al Consiglio dei Ministri. Brevemente, tipo 2 mesi fa, ricordiamo che la Digos e la polizia comunque sono entrati facendo delle perquisizioni nelle case degli studenti, minorenni tra l'altro, alla ricerca di pochissimi grammi di marijuana, dopo un'indagine che era stata portata avanti con poliziotti all'interno della scuola travestiti da bidelli. Per noi questo è stato il segnale fortissimo, nel senso che vedere che prima di essere repressi erano appunto i minorenni e penalizzati sulla libera scelta di consumare, di farsi una canna, non si sta parlando di quantità insomma così eccessive, e è stato anche il primo atto di intimidazione nei confronti delle loro lotte studentesche. Non è un caso che tutte le occupazioni poi che ci sono state a Roma delle superiori sono state sgomberate, e quindi ci siamo ritrovati insieme appunto per reclamare i nostri diritti alla libertà di scelta e anche il diritto per loro ad avere delle lotte studentesche, a fare delle lotte studentesche. L'iniziativa qua oggi è iniziata intorno a mezzogiorno e mezzo, anche se ora è nel pieno dello svolgimento. Ci sono i ragazzi che stanno uscendo dalla scuola e si trovano immediatamente davanti una serie di lustri figuri, diciamo di Robocop, con pistoloni di carta pesta in mano e un mega grande droga detector sotto cui sono costretti a passare tutti, e dopodiché, visto che molto probabilmente la maggior parte di loro ha qualche sostanza in tasca, vengono tutti ingabbiati e tenuti là dentro. Questa cosa andrà avanti fino a che non ci sarà l'ultima uscita della scuola. Dopodiché ci dovremmo muovere in direzione di Piazza Gioacchino Belli e dall'andremo insieme in un mini corteo con il sound fin sotto Regina Coeli per ribadire proprio un no forte alla criminalizzazione del consumo e delle lotte studentesche.